Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, come parliamo? Ce lo siamo mai chiesto di fronte al grande cambiamento che anche nella lingua sta avvenendo in questi anni, ma per la verità è sempre avvenuto? Ce lo spiega in questo libro Stefano Bartezzaghi. Il libro si intitola Come dire Galateo della comunicazione, pubblicato da Mondadori, 210 pagine, 17 euro. L'autore è un saggista ed enigmista molto famoso. La grammatica per Bartezzaghi non è una noiosa camicia di forza, piuttosto essa diventa lo specchio delle trasformazioni della società. E Bartezzaghi fotografa queste trasformazioni in questo modo. Una volta, tu solo con amici intimi, parenti e bambini, turpiloquio solo tra amici intimi e non in presenza di persone del sesso opposto, uso di termini e forme popolari, volgari, colloquiali solo in contesti altamente informali. Oggi, tu molto diffuso, turpiloquio in Parlamento, sintassi pencolante, ortografia da pianto di rotto, eccetera. Il linguaggio, spiega l'autore, risponde a una funzione primaria, quello di comunicare, come il cibo corrisponde al nutrirsi e gli abiti al coprirsi, ma ovviamente non svolgono il cibo e gli abiti soltanto quelle funzioni, c'è un significato, un valore secondario che anzi ormai è quello prevalente, il cibo si assapora perché è buono, gli abiti perché sono eleganti, e lo stesso è per il linguaggio, di cui abbiamo in questo libro molti esempi relativi alle deformazioni che ha subito, deformazioni alimentate ora dalla scrittura sincopata via SMS e via Facebook. Bartezzaghi presenta alcuni esempi di queste nuove forme comunicative con dei titoli fulminanti. Al cartoccio, le bestie avvolte sono meglio degli uomini, per esempio. Oppure, i conti senza l'oste, SMS, come stai? Così, sempre l'apostrofo stesso. 120 chilometri. Allora, tesoro, come va? Peccato che allora è scritto con l'apostrofo. Sorpresa di Pasqua. Pasquetta 2011, bellissima gita al ago con l'apostrofo. E così via. Troviamo anche una testimonianza di questo cambiamento nella curiosa onomastica che si sta imponendo presso gli italiani, cioè nei nomi che affibbiano ai loro figli. Ma sentiamo su questo l'autore. Buongiorno a Stefano Bartezzaghi. Buongiorno a lei. Stefano Bartezzaghi, secondo lei c'è da disperarsi sulle condizioni in cui viene utilizzata la nostra lingua? L'italiano è un patrimonio culturale a sua volta che sta scomparendo? Ma i linguisti non dicono questo, perché appunto ci sono invece molti indicatori che parlano di una situazione accettabile. Certo che insomma ne facciamo un grande uso, perché appunto parliamo tanto, scriviamo ormai anche tanto, e quindi un po' delle vecchie norme grammaticali vanno un po' a farsi benedire, ecco, come quando c'è traffico la gente comincia a posteggiare, a passare col rosso, a posteggiare sui marciapiedi. Un capitolo del suo libro si intitola Chiedimi se sono strafelice, si parla qua di come straparlare superlativamente. Ecco, questa enfasi continua che mettiamo nel nostro discorso vuol dire che non interessano più le sfumature anche nel linguaggio? Vogliamo distinguerci, vogliamo che il nostro messaggio sia inteso dagli altri, vogliamo che il nostro post su Facebook faccia epoca, il nostro tweet venga retweetato. Allora bisogna esagerare. Per esagerare la prima risorsa sono i superlativi, ma poi possiamo usare l'ortografia, aggiungiamo delle vocali, mettiamo punti esclamativi, usiamo il turpiloquio perché la parolaccia ci distingue, fa effetto, ma certo che più usiamo questi mezzi per dare enfasi, meno enfasi questi mezzi riescono a dare. Insomma, l'espressività del linguaggio è un po' sovraeccitata e rischia di logorarsi. E a proposito di volgarità, infatti un capitolo del libro si intitola Come correggere la volgarità dei giovanilisti d'oggi. È un fatto di giovanilismo soltanto? Una volta la parolaccia erano i giovani che dicevano le parolacce, adesso siamo tutti, cioè i giovani sono giovani, gli altri sono giovanili o vogliono essere, quindi giovanilisti, e quindi la parolaccia appunto fa distinguere e connota anche disinvoltura nel linguaggio, questa informalità, ed è proprio l'esempio di scuola, di un tipo di linguaggio che dilaga dappertutto, è arrivata non in anni recenti ma in qualche anno passato sino al colle più alto. Questo appunto fa effetto, ma anche nel senso che francamente dispiace un po'. Ecco, invece un'altra categoria di utente della lingua sono i bambini. Dei bambini lei parla, ne individuo due modelli, il modo in cui ci comportiamo con i bambini, considerarli degli ometti provvisoriamente incompleti, scrive, ovvero degli angeli, delle creature innocenti, spontanee, irragionevoli, poiché naturalmente savi. E questo atteggiamento come si riflette poi nel modo in cui noi insegniamo la lingua? Si riflette soprattutto per quando ci mettiamo sullo stesso piano e parliamo e cerchiamo di parlare il bambinese e sembriamo appunto i milanesi che cercano di parlare romanesco o cose del genere. Ed è appunto, a volte è eccessivo, viene da fare ovviamente perché con i bambini si usa, è anche giusto usare un linguaggio vezzeggiativo, ma a volte si esagera perché appunto in realtà la crescita avviene anche perché il bambino imita il linguaggio degli adulti, quindi se lui ne parla in un certo modo, invece è giusto parlargli normalmente, così con gli stranieri è giusto indicare la strada senza dire andare a destra, poi proseguire diritto, ma insomma parlando giustamente. Io sono sempre più contento, ecco, quando si trattano le persone, anche quelle provvisoriamente piccole, in modo maturo. Ecco, veniamo alle conclusioni del suo libro. Lei scrive: per vivere felici bisogna disinteressarsi della grammatica, non farsene una preoccupazione. Farà venire l'infarto ai maestri di scuola. Alla fine, perché nessuno pensa alla grammatica, nessuno quando parla dice adesso faccio una bella incidentale. Bisogna appunto avere attraversato la grammatica, e più che la grammatica, se appunto essendo il mio libro poi idealmente un galateo, penso all'esempio e quindi al fatto di acquisire delle forme e essere certi di calcolare il contesto in cui si parla. Qui siamo alla radio e usiamo un certo linguaggio. Se fossimo al bar a vedere la partita, potremmo usarne un altro. E appunto, una volta che uno ha calcolato la circostanza in cui sta parlando, allora a quel punto deve anche sentirsi sereno, e se anche dovesse sbagliare un congiuntivo, insomma, poi alla fine il mondo non crolla per quello. Mi pare che le regole del galateo le abbiamo osservate. Beh, insomma, questa è la speranza. Sicuri non si può esserlo mai, però la speranza è quella, insomma, perlomeno ce la si mette tutta. Le ascolteremo la trasmissione. Grazie a Stefano Bartezzaghi, autore di Come Dire. Buona domenica. Grazie mille, anche a voi. Errori di grammatica lei non ne fa, che senza errori non sia mai felicità. E un invito a riscoprire le sfumature e la bellezza infinita della nostra lingua viene da Sabrina D'Alessandro, che è una creativa pubblicitaria e fondatrice niente meno che dell'ufficio Resurrezione Parole Smarrite. D'Alessandro ha scritto per Rizzoli il libro delle parole altrimenti smarrite, 412 pagine, 16,90 €. Le parole, secondo l'autrice, hanno la capacità di dare voce a cose che altrimenti non vedremmo, creando un'idea dove prima non c'era, e ci consentono di far risuonare la realtà in modo nuovo, diverso. E allora qui troviamo 311 parole in 155 coppie, ciascuna con una citazione che le contempla. Sono naturalmente delle parole rare, un po' uscite dall'uso quotidiano, che ci fanno appunto riacquistare familiarità con le sfumature dell'italiano. Troviamo per esempio Salamoia con Arturo Graff che scrive: ma annoia certa gente in Salamoia. Ma poi si parla di parole ancora più rare, per esempio sgallinamento, con una citazione di Arbasino: qui succede di tutto, ritrosie, corteggiamenti, emozioni, incontri, cori di dipendenti devoti e sgallinamenti snobistici in lingue straniere. Oppure buassaggine, che vuol dire l'essenza del bue, con una citazione di Leopardi: la buassaggine è il miglior dono che la natura faccia a un animale, e chi non è bue non fa fortuna in questo mondo. Infine vi segnalo un libro storico, ma di drammatica attualità proprio in questi giorni, che si intitola L'alluvione, il Polesine nell'Italia nel 1951, di Paolo Sorcinelli e Miran Chaparassian. È pubblicato da UTET, 285 pagine, 18 €. E proprio tra il 12 e il 13 novembre di 60 anni fa l'Italia visse un momento tragico, l'alluvione appunto del Polesine, che interessò 290.000 persone, allagò 113.000 ettari di superficie coltivata, coinvolse una quarantina di comuni e provocò un centinaio di vittime, di cui soltanto 84 a bordo di un camion sul quale stavano fuggendo e che venne travolto nella notte tra il 14 e il 15 novembre. L'epicentro di quel disastro fu tra Occhiobello e Santa Maria Maddalena, dove il Po ruppe gli argini. L'anno era stato già ricco di disastri. Oggi continuiamo a ripetere che il clima è cambiato e che le piogge sono eccezionali, ma nel 1951, apprendiamo da questo libro, le cose non andarono molto diversamente. Scrivono i due autori che per tutto l'anno piogge, straripamenti, inondazioni, frane si erano susseguiti con una cadenza impressionante dal nord al sud, da gennaio a novembre, tanto che ormai tutta l'Italia vantava un repertorio di acque cattive, i cui resoconti assomigliavano ai bollettini di guerra di recente memoria. E in particolare si era verificato da poco un disastro in Calabria, dove erano cadute nella notte tra il 16 e il 18 ottobre 1770 mm di pioggia, provocando anche lì 78 morti. Ma il Polesine assunse un rilievo internazionale. Qui nel libro si ricostruisce quello che successe in quelle notti, come furono organizzati i soccorsi e quale fu la reazione del mondo intero. Un libro tira l'altro. Occupiamoci adesso del nostro paese con due libri di due grandi giornalisti. Entrambi ci fanno scoprire o riscoprire aspetti ormai dimenticati dell'Italia. Il primo è uno dei maggiori giornalisti italiani, Giovanni Russo, che ripubblica L'Italia dei poveri, pubblicato da H, 380 pagine, 16 euro. Il libro raccoglie qui alcuni racconti e inchieste del 1958 che, scriveva allora Russo, volevano rappresentare alcuni aspetti della realtà italiana che sono spesso ignorati o vengono travisati dalle formule politiche, dal conformismo ufficiale, dalla propaganda di parte. Si parla ovviamente, e spesso fortunatamente, di un'Italia che non c'è più, non solo l'Italia rurale, ma anche l'Italia delle grandi fabbriche, scomparsa anch'essa. Sentiamo per esempio queste righe che Russo dedica a quella che allora era una delle capitali dell'Italia industriale e produttiva, una città che è diventata negli ultimi anni famosa proprio per il modo in cui ha gestito o non ha gestito il trapasso dalla fase industriale a quella post-industriale. Sesto San Giovanni. Sesto conta circa 45.000 abitanti, ma ogni giorno la sua popolazione si raddoppia. Le stazioni ferroviarie, le fermate del tram e delle autocorriere pullulano la mattina presto di folle, fiumane di operai e di impiegati che arrivano da Milano, dai paesi della Brianza e del Bergamasco. Girando per le strade ci si accorge che questa città è amorfa come certi paesoni delle Puglie. È cresciuta, con le sue case anonime attorno ai grigi stabilimenti, senza una regola urbanistica. Sono venuto a Sesto attratto dalla sua fama di capitale industriale. Qui c'è, forse, la più grande concentrazione di officine d'Italia, centinaia di fabbriche che producono tutto, dall'acciaio alla gomma, alle radio, per un fatturato di circa 10 miliardi al mese. Se accanto agli stabilimenti della Falck, della Breda, della Marelli, si pone anche quello della Pirelli, si può calcolare in 70.000 persone la popolazione lavoratrice di Sesto. Qui è possibile scrutare la vita di questi uomini appartenenti a una classe che non si sente ancora inserita nello Stato, come si sentono estranei allo Stato i contadini del Sud. Ma Russo gira per tutta l'Italia, discute con marxisti ancora molto sicuri di sé, scopre preti insospettabili, seziona Roma e il suo disordinato sviluppo economico, poi scende a sud, vagabonda per la Sicilia, insomma fa un viaggio in un'Italia che non c'è più per sottolineare, come nota un po' provocatoriamente Giuseppe Lupo nell'introduzione, che il meglio della scrittura degli anni 50 sta nella letteratura di viaggio, nell'inchiesta sociologica di cui appunto questo libro di Russo è testimonianza. L'Italia dei poveri, e scrive dunque Lupo, è una tra le esperienze più significative della letteratura di impegno, con una particolarità, aggiunge, che Russo salvaguarda un'istanza etico-civile della scrittura ben lontano da quei motivi ideologici che tanto spazio occupano nei romanzi di quel decennio e che a un intellettuale di forti tradizioni liberali come Russo, cresciuto nella scuola di Mario Pannunzio del Mondo, non potevano non suscitare imbarazzo. Quell'Italia dunque è finita, ma potrebbe tornare? Se lo chiede Giampaolo Pansa nel suo ultimo libro Poco o niente, eravamo poveri, torneremo poveri. È pubblicato da Rizzoli, 348 pagine, 20 euro. La grande paura del 2000, scrive il grande giornalista, è ritornare poveri. Così appunto inizia il suo libro. Pansa sottolinea la grande differenza tra la generazione precedente e quella attuale, che non è più sicura, come appunto quella precedente, di poter garantire ai figli un futuro migliore del proprio presente. E infatti, scrive Pansa, per quel che riguarda l'avvenire dei figli, molti genitori vivono sono nel presente, per dirla in modo secco, campano alla giornata. E allora troviamo qui la storia di una famiglia, la propria, di origine modeste, che parte da metà 800, un secolo terribile, sottolinea Pansa, al di là di tutte le romanticherie e patriottismi che lo hanno arricchito in questi ultimi mesi. Famiglia che viene collocata all'interno di una società piccola, povera, che dava scarsissime prospettive. Il libro si conclude nella metà degli anni 30 del secolo scorso col matrimonio dei genitori del giornalista. Insomma, troviamo qua di nuovo un quadro insostituibile dell'Italia passata, scritta oggi, per restituirci lo spirito coraggioso col quale uscimmo da quella miseria. Perciò Pansa precisa, il sottotitolo di Poco Niente recita «Eravamo poveri, torneremo poveri». Confesso, scrive lui stesso, che avrei preferito che la seconda riga si concludesse con un punto interrogativo per non apparire un profeta di sventura, ma l'editore ha deciso altrimenti. Comunque, sottolinea Pansa, le vicende narrate in Poco Niente non sono per nulla relegate in un tempo lontano, ci riguardano da vicino, stanno ancora dentro le nostre esistenze e un giorno potrebbero bussare alla porta di ciascuna. E sentiamo allora dal libro qualche riga proprio dedicato al tema della lingua, visto anch'essa come strumento di emancipazione sociale. L'arrampicata per diventare una città civile, anche per i poveri, risultava sempre molto faticosa. A testimoniarlo c'era la condizione dei bambini che appartenevano ai ceti più umili. Per cominciare, parlavano soltanto il dialetto e quasi mai l'italiano. La lingua della nazione era un tabù difficile da scalfire o una conquista assai ardua da raggiungere. In proposito, ho un ricordo personale, sia pure riferito a molti anni dopo. Mio padre Ernesto e mia madre Giovanna tra loro parlavano in dialetto monferrino, con più di un'espressione vercellese, e lo stesso facevano con la nonna Caterina, ma nel rivolgersi a mia sorella Marisa e a me, i nostri genitori usavano soltanto l'italiano e non volevano che noi ci esprimessimo in dialetto. Parlare bene l'italiano, senza errori o strafalcioni, per i nostri genitori era un segno di emancipazione sociale e di cultura. Il luogo dove l'italiano veniva insegnato era la scuola elementare, ma anche tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento ben pochi bambini venivano mandati a lezione. Del resto, pure i maestri erano pochi e spesso risultavano impreparati. Gli edifici scolastici costituivano l'ultimo pensiero delle autorità locali e in molti piccoli paesi non esisteva nessuna scuola, per mal ridotta che fosse. Un contraltare a Giovanni Russo può essere considerato Goffredo Parise, suo contemporaneo, di cui Adelphi pubblica Il padrone, 268 pagine, 19 euro. Il romanzo è di poco successivo appunto alle inchieste di Russo, del 1964, ed evoca il clima di speranza che a un certo punto ha cambiato la prospettiva di tanti italiani. Un giovane arriva in una grande città, ha trovato un impiego stabile, arriva con le 50.000 lire che i genitori gli hanno dato e lui si rende conto dell'enorme sacrificio di questo regalo e vuole a tutti i costi onorare questi sacrifici, ma il suo destino non sarà facile. L'azienda nella quale va a lavorare, che evocherebbe la casa editrice dove lo stesso Parise avrebbe lavorato per un periodo, è una specie di macchina infernale, oppressiva, che ruota intorno alla personalità nevrotica del padrone, il dottor Max, e che riesce a condizionare la vita degli impiegati, scrive a un certo punto Parise. Ogni momento della mia giornata, o meglio ogni atto della mia vita, alzarmi dal letto, prendere il filobus, mangiare, lavorare, tornare in ufficio, cenare, coricare per la notte, è un atto che non è mai fine a se stesso, ma vive e si anima in funzione del dottor Max e della ditta che il dottor Max rappresenta. E anche il suo matrimonio coronerà il disegno di onnipotenza del principale, concludendo così un romanzo sarcastico e crudele, anch'esso espressivo di un certo modo in cui l'Italia è cambiata. Questo è il mio primo giorno nella grande città dove ho trovato lavoro. Non posso negare di essere un poco emozionato. Da oggi la mia vita muta radicalmente. Fino a ieri ero un ragazzo di provincia, senza nulla in mano, che viveva alle spalle dei genitori. Oggi invece sono un uomo che ha trovato lavoro e che d'ora in poi provvederà a se stesso, non da solo, ma già comincia a pensare a una famiglia propria e, quando sarà il momento, ad aiutare anche voi, cari genitori. Sono partito dalla nostra città con le 50.000 lire che voi mi avete dato. Le terrò con cura, non le butterò certo via e ricorderò sempre questo sacrificio che avete fatto per me. E a questo punto... Il confettino. Per abituarci a conoscere le parole, ma prima di tutto i loro mattoni, vi segnalo ABC d'arte, lettere nascoste nei quadri di Anne Guéry e Olivier du Souture, tradotto da Federica Previata, pubblicato da Franco Cosimo Panini, 17 euro. Qui troviamo 26 opere d'arte notissime che nascondono ciascuno una lettera che i lettori, i bambini, vengono invitati a riconoscere, accostandosi così all'alfabeto e all'arte attraverso alcuni dei maggiori capolavori della cultura occidentale. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Carmelo Lauricelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.